Radio 24 Reportage. Le amministrative di Radio 24. Napoli al voto, battaglia 4 per la conquista di Palazzo San Giacomo. Di Anna Rita D'Ambrosio. Niente, cioè in Napoli, Pippo, cioè, si è detto sempre tutto così, capisci? Sapevo già tutto che là la presentano sempre, cioè nel modo, cioè, solo, cioè a Napoli c'è sto solo. Che se, penso che lo sanno tutti quanti, no? Mica stanno solo normale, piccirilla, sì, stanno piazze sola così a Napoli. No, ma sempre, cioè, sa, mica a Napoli non c'è mai. Dateci sole, sole, ci hanno tolto tutto il resto, c'è rimasto solo questo sole, sole. Le lacrime che scendono e che fanno umidità. La voce di Massimo Troisi, la musica di Edoardo De Crescenzo nella versione di Sal Da Vinci per raccontare le meraviglie e i problemi di Napoli al voto per eleggere il 34esimo sindaco dal dopoguerra. Ci riprovano quello uscente e lo sfidante di 5 anni fa, poi c'è l'ex assessore che vuole conquistare la fascia tricolore e un napoletano acquisito nato a Monza. Tutti per Napoli, Napoli senza più emergenza rifiuti, Napoli dove i turisti sono tornati numerosi, dove c'è da giocare la partita di Bagnoli e migliorare il servizio di trasporto pubblico in superficie al netto della metropolitana più bella d'Europa. Napoli dove c'è da lavorare nelle periferie, dove c'è da garantire più sicurezza. La corsa a Palazzo San Giacomo, sede del comune, è più estesa, ma la partita si gioca a 4 con un osservatore d'eccezione, l'ex sindaco della Rinascita Antonio Bassolino, uscito sconfitto per pochi voti dalle primarie delle polemiche, quelle dove un filmato ha registrato irregolarità rimaste impunite. Ha seguito la campagna elettorale su Twitter, strigliando ogni giorno il partito. Lo abbiamo cercato, voglia di parlare, non ne ha. Vuole restare un osservatore del PD renziano, che al suo posto ha scelto Valeria Valente, ex sua pupilla, assessore al turismo della Giunta Iervolino, attuale parlamentare. A sostenerla anche la lista verdiniana di ALA. Cuore e coraggio, si legge sul suo sito. Il Partito Democratico vuole ridare una possibilità a Napoli rispetto al disastro di questi anni, all'immobilismo e all'isolamento cui Napoli è stata condannata in questi ultimi 5 anni. Qual è il punto di forza della candidata Valente? Ma il fatto di essere appunto una donna di 39 anni, mamma di questa città, nata e cresciuta in un quartiere popolare della città, che conosce da tempo i problemi di Napoli perché intanto li vive sulla propria pelle, ma che ha anche maturato un'esperienza istituzionale significativa e importante, quindi nessuna improvvisazione, però insieme la voglia e la determinazione di una generazione che crede sia giunto finalmente il momento di affermare protagonisti nuovi sullo scenario politico napoletano. E quale sarà invece il primo atto, la priorità del sindaco Valente? Un intervento importante e significativo sulle scuole della città. Il sindaco della città è anche sindaco, sarà anche sindaco della città metropolitana, quindi assorbirà le competenze, le funzioni della vecchia provincia, quindi anche edilizia scolastica su tutte le scuole della città e della provincia. Allora intanto utilizzare fino all'ultimo euro disponibile, cosa che non è stata fatta in questi anni, per rimettere a posto le scuole di Napoli, metterle in sicurezza e renderle scuole belle, pensando che in quelle scuole crescono i nostri ragazzi e devono abituarsi al bello. Il candidato da battere è il coriaceo sindaco uscente Luigi De Magistris, emanazione diretta di nessun partito ma sostenuto da 14 liste, da 5 anni a Palazzo San Giacomo, con una parentesi, da sindaco di strada per la sospensione in applicazione della legge Severino a seguito della condanna in primo grado per abuso d'ufficio. Reintegrato nella carica dopo 29 giorni trascorsi in strada, è tra la gente che ha costruito il consenso che ora lo dà tra i favoriti nella corsa. Credo che quel rapporto così intenso con la città è la cifra della svolta dell'amministrazione De Magistris degli ultimi 2 anni. Contro questo governo e contro il capo del governo lei si è espresso più di una volta, sembra puntare di più alla battaglia con Renzi che a quella con i suoi avversari. Come si può rispondere? Assolutamente no, la mia campagna elettorale è per i napoletani, per la città e non è contro nessuno. Noi collaboriamo col governo, ma in alcune vicende come Bagnoli, dove c'è il tentativo di mettere le mani sulla città, noi ci opponiamo. C'è anche chi si scandalizza per alcuni toni forti che ho utilizzato in un comizio. Non, evidentemente da un lato non ci si è più abituati ai comizi e comunque, come dire, mi cospargo il capo di cenere se di fronte agli arresti del sindaco di Lodi, l'arresto del sindaco di Venezia, Banca Etruria con la Boschi, l'accordo di Renzi con Verdini condannato in primo grado per corruzione, mafia capitale, l'inchiesta Tempa Rossa che coinvolge il governo, pezzi di governo, le indagini sui rapporti tra il presidente del PD Campano e i casalesi, arresti di altri sindaci, se il problema è un tono sopra lo spartito dell'ordine costituito del sindaco di Napoli, chiedo scusa di aver turbato l'ordine costituito nel nostro paese. Io quello che voglio ribadire è che in questi 5 anni abbiamo governato con le mani pulite contro la corruzione, contro le mafie, cercando di liberare Napoli senza avere un euro e con tantissimi ostacoli. Quanta gente per la via, ma l'uscita dove sta? Chi è partito da ragazzo prima o poi ritornerà. 2 milioni di abitanti, c'è chi viene e c'è chi va, più di 10 in una stanza, ora scoppia la città. Il centrodestra ripropone lo scontro con l'imprenditore Gianni Lettieri, nato alla Duchesca, vicino Piazza Garibaldi. L'imprenditore Scugnizzo si è definito in un libro, presidente e amministratore delegato di Meridie S.p.A., la prima investment company interamente privata istituita nell'Italia meridionale. A sostenerlo Forza Italia e 12 liste, tutti gli arrabbiati con la gestione De Magistris. Sì, io ho fatto impresa in tutto il mondo, ho avuto aziende in India, negli Stati Uniti, in Sud America e anche in Italia, ovviamente fino a quando ero nel tessile, sono stato per oltre 30 anni nel settore tessile, poi un po' di crisi e un po' perché ho riconvertito stabilimenti, ne sono uscito nel 2008 in maniera definitiva, 2006-2008, vendendo l'azienda all'estero, trasformando alcune aziende in Italia. E ho costituito una società che è quotata alla Borsa di Milano, l'unica società di Napoli quotata alla Borsa di Milano. Io non faccio politica, non voglio fare il politico, non mi candido a null'altro se non a gestire e a risolvere i problemi della mia città. E come ho dichiarato più volte, lo faccio gratis perché amo troppo Napoli e non voglio più vederla ridotta in questo stato. Quale sarà la priorità del sindaco Lettieri una volta eletto? La priorità a Napoli è lavoro, lavoro, lavoro e sicurezza. La priorità sarà ripristinare legalità, trasparenza e sicurezza nella mia città che oramai purtroppo è scomparso con questa amministrazione. Io andrò al ballottaggio con De Magistris. De Magistris questa volta non potrà dire le sciocchezze che diceva 5 anni fa. Neanche uno degli impegni presi 5 anni fa è stato mantenuto. Come diceva Kennedy, tu puoi ingannare tutti una sola volta, puoi ingannare qualcuno qualche volta, ma mai tutti per sempre. Sole, ci hanno tolto tutto il resto, c'è rimasto solo questo sole. La vera sorpresa arriva dal nord, da Monza per la precisione, dove è nato Matteo Brambilla, da 10 anni residente a Chiaiano. Nessun problema, ci racconta, sono napoletano, giro la città in questa campagna elettorale e la gente mi ascolta. Sono napoletano a tutti gli effetti, nel senso che la mia origine è Monza, la mia città dove abito è Napoli, quindi ormai sono napoletano, ecco. Dopo un po' di diffidenza magari per l'accento che non ho ancora preso, e una volta che mi conoscono capiscono che io amo questa città come conosco questa città, come la conoscono e come la amano loro, so quali sono i problemi. So che farò di tutto per evitare che le persone vadano via da Napoli, ecco, cioè alla fine poi uno si scioglie e ci si guarda in faccia da abitanti della stessa città e con lo stesso cuore per questa città e per il suo futuro. Ecco. Qual è secondo lei il punto di forza del candidato sindaco Brambilla? Sono gli attivisti che mi hanno scelto, gli attivisti residenti a Napoli. E quale sarà invece la priorità del sindaco Brambilla? Noi non abbiamo la prima delibera o i primi 100 giorni, noi abbiamo fatto un programma per i 5 anni. Sicuramente una delle prime cose fondamentali in questa città è la riorganizzazione e ottimizzazione di quello che è la macchina comunale. L'altro punto sicuramente è la lotta agli sprechi e l'onestà amministrativa e la trasparenza amministrativa, quindi tutto quello che sono retaggi del passato dovranno rimanere retaggi del passato, si dovrà vedere una gestione oculata e dare servizi ai cittadini senza spendere un euro se non per i cittadini. Napoli bellissima e sofferente, Napoli dove la criminalità fa paura, Napoli capitale dei contrasti. Al sindaco che verrà auguriamo buon lavoro, chiunque sia, i quattro che avete ascoltato, gli altri candidati che si cimentano nell'impresa. Nunzia Amura per il Partito Comunista di Marco Rizzo, Luigi Mercogliano in campo con Popolo della Famiglia, il movimento di Mario Adinolfi, Domenico Esposito con la lista Qualità della Vita per Napoli, Marcello Taglialatela, esponente di Fratelli d'Italia, e Martina Alboreto che si presenta per Fratelli del Popolo Italiano. Auguriamo a tutti un buon lavoro. Chiudendo, ancora descrivendovi la città bellissima e sofferente. Lo facciamo con le parole dello scrittore napoletano Henry De Luca. Se tiri una linea da Marsiglia a Atene, da Trieste a Tripoli, da Istanbul a Barcellona, incroci Napoli, sta in mezzo al Mediterraneo come il mese di maggio in mezzo all'anno. Quando la fondarono i greci, avevano esaurito tutta la loro fantasia geografica. Come la chiamiamo questa città? Dissero, ma provvisoriamente chiamiamola Neapolis, città nuova. Città nuova. Ma il mondo è pieno di città nuove che si chiamano così. Allora i napoletani si sono specializzati per rendere inconfondibile il loro luogo, a differenza di tutti gli altri, di tutte le altre città nuove. E hanno fatto di Napoli una città leggendaria, che è sempre un misto di magnifico e di atroce. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.